Allora ritorniamo in voce, sono passato mezzogiorno per parlare di una storia di, come definirla, di ordinaria repressione che si è verificata l'11 marzo a Torino in conseguenza di un'iniziativa per il diritto alla casa. C'è stato appunto l'arresto di alcune compagne, una in particolare credo che sia in questo ancora oggi, insomma, sotto misura cautelare. Ne parliamo con un compagno che è con noi collegato, Andrea, dell'Assemblea Popolare contro gli Sfratti, del quartiere Porta Palazzo. Ciao Andrea, buongiorno. Sì, ciao a tutti. Allora, sì, raccontaci bene come sono andate le cose, innanzitutto. Partiamo dalla fine, cioè ancora siamo in attesa di sapere se c'è già stata l'udienza di convalida e com'è andata, perché oggi sarà a ore l'udienza di convalida in carcere per i tre arresti che ci sono stati l'altro giorno, di tre compagne. Due sono compagne, una tra l'altro è molto conosciuta, che è Marianna, e un'altra compagna Simone, e poi un'altra compagna, una compagna che abbiamo conosciuto in questo percorso di lotta contro gli sfratti, di occupazione, di resistenza, è una signora brasiliana che è stata arrestata durante appunto quell'iniziativa che adesso vi racconto. La premessa è semplice: nell'ultimo anno e mezzo la resistenza diffusa contro gli sfratti in città, a Torino, ha assunto una dimensione grossa e anche una certa determinazione, diciamo, mettendo molto molto molto in crisi l'associazione dei padroni di casa, il comune, la questura, nel senso che qua, soprattutto nelle zone di Porta Palazzo, Marina di Milano, per chi conosce Torino, la zona nord, e poi già da tempo nella zona di San Paolo, è tecnicamente proprio difficile per gli ufficiali giudiziari eseguire gli sfratti. Vi faccio un esempio di oggi, giusto per farvi capire la capacità di mobilitazione. L'Assemblea di Porta Palazzo, che questa qui accennavi, che è un nome che diamo così perché non è una struttura formale, semplicemente un luogo in cui ogni due settimane si trovano le famiglie sotto sfratto e si organizzano per l'organizzazione della resistenza, e quindi è una rete pratica, ecco, non è che sia un soggetto. Ieri doveva esserci un picchetto antisfratto di un signore rumeno che abita neanche proprio nella zona dove i rapporti sono più fitti. L'ufficiale giudiziario non si è fatto vedere ed è andata a sorpresa stamattina, e quindi stamattina, nel giro di 20 minuti più o meno, davanti al portone di questo signore rumeno si sono radunate, ma in un battibaleno, quindi, perché veramente 20 minuti e mezz'ora, 30 persone, e quindi l'ufficiale giudiziario, che sperava, facendo lo spazio a sorpresa, di eseguirlo, è dovuto scappare. E poi è stato pinzato in un altro angolo ed è stato costretto a dare una proroga. Per cui adesso come adesso, qui in zona e anche nelle zone limitrove, la rete di rapporti è talmente vasta che ci sono sempre 20, 30, 40, 50 persone disposte a mollare tutto quello che stanno facendo. Oggi gli è arrivata della gente che stava facendo la coda all'ufficio di collocamento, è arrivata tutta vestita bene con la valigetta, ha buttato via il numero, no, della fila ed è venuta lì. Quindi c'è una situazione veramente entusiasmante dal punto di vista della partecipazione. All'interno di questa situazione qui la questura ha provato al tempo a concentrare tutti gli sfratti, tutti gli accessi in uno stesso giorno del mese per diluire la resistenza. Non ci sono riusciti, perché a parte qualche sfratto che si riusciva a diluire all'inizio, e ormai è dall'estate che non riescono più, anzi hanno provocato un ispessirsi della resistenza, tanto che qui una volta al mese, se passate in questi quartieri, trovate le strade chiuse da barricate, i cassonetti di fronte alla porta e tanta gente italiana e straniera assieme che si organizza per registrare gli sfratti, con la questura che a volte gira con le camionette e non riesce ad attaccare, perché si rende conto che attaccare un picchetto e magari anche prendersi 30 persone vuol dire far sì che poi ce ne siano altre 100 in giro per la città, incazzate e molto radicate nel quartiere, quindi non sanno bene che pesci pigliare. E la svolta che c'è stata, che poi giustifica l'iniziativa dell'altro game, è questa: che hanno cominciato a fare gli sfratti a sorpresa, cioè assegnano delle giornate, come succede normalmente, cioè fanno dei rinvii e poi non eseguono nel giorno del rinvio, ma eseguono a sorpresa prima. Questa cosa ovviamente per mettere in difficoltà la resistenza, è una cosa che tecnicamente si può fare, perché con un'ordinanza del giudice, il giudice può dire sappiamo che quella casa lì fa resistenza, e quindi se vi diciamo prima la data non riusciamo ad eseguire, e quindi la possiamo eseguire a sorpresa. Per cui le varie realtà che resistono agli sfratti, l'Assemblea di Porta Palazzo, per la quale posso parlare io, ma ce ne sono altri di realtà in dietro, stanno discutendo, no? Ognuno che pesci pigliare. E giusto lunedì, proprio di fronte ad un ufficiale giudiziario che non si era fatto vedere un picchetto, che aveva detto per telefono all'inquilino ah, oggi non ti sfrattiamo ma rimando le carte al giudice e ti sfratta lui quando vuole senza dirtelo prima, siamo andati, abbiamo sciolto, abbiamo lasciato una decina di persone al picchetto e gli altri 40, perché i picchetti sono più o meno di 40-50 persone adesso, come adesso a Porta Palazzo, e siamo andati ad occupare la sede degli ufficiali giudiziari, dell'ufficio pubbliche relazioni degli ufficiali giudiziari, e l'abbiamo tenuto per un bel po' di tempo, creando anche un bello scompiglio, crisi isteriche delle funzionarie, queste cose qua. E è stata una cosa lunga, è stata lunga anche perché gli sfrattati stessi non hanno voluto retrocedere, anche quando era chiaro che circondati dalla cenere nel cortile non avevamo scampo, hanno voluto andare fino in fondo, per cui hanno portato via un po' di persone prima, e poi una ragazza, appunto questa che poi è stata arrestata, si è arrampicata su una finestra, è stata tirata poi è scesa poi successivamente, però intanto ci sono stati dei tartarugli in cui hanno preso un altro compagno, e poi dei compagni accorsi poi fuori in ritardo hanno provato a bloccare la strada e sono stati caricati. Insomma, ci sono stati vari momenti di tensione e abbiamo passato anche in alcuni di noi molto tempo in questura. E quello che è successo poi non lo sappiamo esattamente, perché tre compagne sono state, queste tre ragazze che poi hanno arrestato, sono tenute insomma, e sono state caricate su un furgone, e una di loro ha fatto la mossa di andare sul tettuccio del furgone, dal buco che c'è quello per i lacrimogeni, per fare i lacrimogeni, per mettere la macchinetta dell'idrante, a salutare, a continuare a urlare basta sfratti, presumibilmente le guardie antiatteggine, è nata una colluttazione, però appunto che nessuno ha visto, e chi c'era in questura ha visto arrivare le tre già peste, quindi pestate dalla polizia, e addirittura una ragazza, Simone, è stata picchiata di fronte ai nostri occhi, noi eravamo chiusi in una gabbia in questa questura qui di periferia, e è stata presa proprio spintonata e presa a calci in pancia da un agente delle volanti, e quindi avendo le pestate poi adesso le hanno arrestate mentre noi ci hanno rilasciato, e adesso c'è la convalida. Per cui questo è veramente in estrema sintesi, anche per spiegarvi il contesto. La questione qui è che adesso non sappiamo se usciranno o meno, io spero di sì ovviamente, però la cosa interessante è che nonostante questo qui, che è stato un po' il primo attacco repressivo, un po' serio contro il movimento contro gli sfratti, di resistenza contro gli sfratti a Torino, possiamo dire che la gente non si è spaventata, perché appunto stamattina eravamo tantissimi, e chi si è messo a battere contro i pali fuori da questa questura l'altro giorno, è stato 4-5 ore di fronte alla questura ad aspettare i fermati, non erano solo altri compagni, ma era gente comune del quartiere, alcuni neanche sottosfatto, ma semplici solidali, arabi, italiani, rumeni, eccetera, che si sono fermati ad aspettare i compagni che avevano preso, gli altri trattati che avevano preso. Per cui la parola d'ordine di questi giorni è che ogni volta che ci sarà uno sfratto anticipato, come appunto come vogliono fare, cioè fuori dalla data, c'è un casino assicurato. Questa cosa dello sfratto anticipato l'hanno già fatto la settimana scorsa, che una famiglia in Borgo San Paolo, un altro quartiere, è stata buttata fuori una settimana prima, e non è stato possibile per i compagni di là opporsi, ovviamente, perché se non lo sai prima è difficile. E per cui è una situazione in cui di forte evoluzione da un lato, ma di crescita clamorosa proprio della resistenza, di grossissima difficoltà da parte dei padroni di casa e della polizia di trovare un'uscita insomma che sia efficace dal loro punto di vista. Beh, che dire, insomma, c'è chiaramente da mettere in evidenza innanzitutto, questo lo facciamo esprimendo anche chiaramente solidarietà nei confronti delle compagne arrestate, di tutti coloro che hanno subito la repressione e le cariche lì fuori, e anche così sottolineando la determinazione in particolare di questa compagna Marianna, che già aveva subito un arresto per essere attiva anche al movimento interno, anche al movimento NoTav, e aver condotto delle iniziative proprio insomma di fronte al cantiere, alle reti, e questo chiaramente c'è da sottolinearlo, nel senso che poi anche in un comunicato che io ho qui davanti si sottolinea quanto sia stata un po' forse presa anche di mira, no? Per la sua partecipazione al movimento. E poi ecco, anche i numeri, diciamo, insomma, che lei nello specifico, al di là della questione del TAV, è una delle persone che qui nel quartiere è più conosciuta, cioè conosciuta, certo, da tutti, dalla gente normale, quelli che stanno nel bar, quelli che passano per strada, ed è conosciuta e particolarmente ben voluta, insomma. E hanno fatto anche un po' un errore a prendere lei da questo punto di vista. Beh, speriamo appunto che proprio questo riconoscimento insomma del suo attivismo, come adombravi tu, insomma, sia in qualche modo uno dei punti favorevoli affinché, no, si costruisca, sì, poi quell'appoggio, quella mobilitazione per farlo uscire al più presto, no? Però mi incuriosiva molto, insomma, proprio la consistenza dei numeri a cui hai fatto cenno, insomma, presidi antisfratto che riescono a raccogliere 40-50 persone solidali, sì, attivisti, sono una bella realtà, credo che proprio qualitativamente importante, insomma. Ma siccome non è la prima volta che poi sentiamo di sfratti, questa dello sfratto anticipato, tutti gli effetti ci sembra una novità, insomma, ma non è la prima volta che ci imbattiamo negli sfratti da quelle parti, insomma, a Torino, nel quartiere Porta Palazzo, che tra l'altro ha grande composizione immigrata, sì. Questo numero così consistente di sfratti allude a quale tipo di cambiamenti che si è racchiusi all'interno di quel territorio, Andrea? Perché a Torino è una città in eterna crisi, e Porta Palazzo, Barriera di Milano in particolar modo, sono quelle che stanno subendo di più tutte le questioni lavorative, insomma, di circolazione di denaro, tutto il resto. Cioè, abbiamo tantissima gente che sta perdendo la casa perché non è riuscita a pagare il mutuo, e tantissima gente che non riesce a pagare l'affitto. È molto, molto, Torino è la città con più alti sfratti in Italia, la statistica dell'anno passato. E all'interno di Torino, se uno guarda la cartina in cui poi sono indicati singolarmente le quantità, questa qui è la zona in cui ce ne sono di più. In più, visto che sono quartieri con forte composizione immigrata, quando noi abbiamo cominciato, di fatto siamo entrati in rete di conoscenze, no, di migranti, per cui è stato molto facile che si spargesse la voce della possibilità della resistenza. Tenete conto che noi non abbiamo fatto mai questo qui a Porta Palazzo, neanche un volantino di pubblicità di questa roba. Cioè, non c'è neanche un volantino in cui dice se sei autosfratto telefona a tizio o vai in tal posto. Tutto ciò sta funzionando soltanto a giro di voce. Quindi rendetevi conto, ed è partita da una famiglia, posso dirlo, insomma, da una bimba della scuola, da mio figlio, che la sua famiglia era sottosfratto. Da quello sfratto lì, poi facendo picchetti e parlandone in strada, ma senza dire siamo gli specialisti in terra, noi, ma guardate che se di Cristo si può anche da soli, se volete organizziamoci assieme, tanto abitiamo qui e ci conosciamo, ha creato questa realtà grandissima, insomma. Senti, oltre a rallentarli nel tempo, a differirli, diciamo, che poi in una città in cui questa esperienza in un'altra zona era già forte, perché in Borgo San Paolo, che c'è proprio uno sportello e tutto il resto, c'erano già anni che si muovevano, avevano impostato un discorso, insomma. Certo, c'è peraltro anche questo gruppo Prendo Casa a Torino, mi sembra, no? Sì, è un altro quartiere qui, qui accanto. No, volevo dire, oltre a differirli nel tempo, gli sfratti si è riusciti proprio, diciamo, a come dire, interrompere la procedura in qualche caso, oppure no, a differirli anche di tanto tempo, per esempio nei primi casi anche un anno e qualcosa. Beh, già sono nate tantissime occupazioni abitative, una realtà abbastanza nuova a Torino, che era iniziata in Borgo San Paolo un anno e mezzo fa più o meno, è iniziata anche qui nel dicembre, non questo qui, quello precedente. Adesso io stesso faccio fatica a contare le abitazioni abitative, le occupazioni abitative che ci sono qua nel quartiere, perché un po' sono state organizzate all'interno, grazie ai rapporti che ci sono nell'assemblea, quindi non direttamente all'assemblea, ma la gente che si è conosciuta nell'assemblea e ha deciso di occupare assieme, e adesso, diciamo, la preoccupazione di cui scrive il Germano, che noi vediamo, che manco conosciamo, perché a forza di dire in giro ogni sfratto sarà una barricata, ogni casa vuota sarà occupata, effettivamente gli sfratti si trasformano in barricate, perché cassonetti davanti ai portoni, con magari dietro i passeggini le donne, ci sono una volta a settimana, e ci sono tante case vuote che vanno occupate da gente che manco conosciamo, giustamente. Beh, certo, è importante proprio, insomma, che questo, come dire, la parola d'ordine dell'autoorganizzazione, insomma, riesca, no, diventi vera, si realizzi in modo capillare, anche a prescindere, se vogliamo, ed è un po', mi sembra un po' il leitmotiv di alcuni tuoi passaggi, insomma, così dallo stimolo, dall'intervento, perché no, hai proprio detto, non c'è una specializzazione, no, di intervento sulla questione, sì, abitativa. Noi eravamo anche molto conosciuti in zona per il lavoro contro le espulsioni, quindi è stato facile poi certo, su queste reti qui diffondere queste possibilità, insomma. Va benissimo, va benissimo. Senti Andrea, noi ti ringraziamo e speriamo, insomma, vogliamo che avere poi notizie. Esatto, esatto, immaginiamo che poi tanto ci siano anche dei comunicati nel caso in cui le compagne fossero liberate, ce lo auguriamo al più presto. Grazie Andrea. Ok, ciao, ciao. Chi non sia accompagnata, andare sola per la città mi sembra un fatto normale. Ma una ragazza, chissà perché.